494. Anguilla col vino. Prendete un'anguilla di circa mezzo chilogrammo o più d'una, dello stesso peso in complesso, non essendo necessario per questo piatto che siano grosse. Strofinatele con l'arena per nettarle dalla mucosità. Lavatele e tagliatele a rocchi. Ponete in un tegame uno spicchio d'aglio tagliato a fettine, 3 o 4 foglie di salvia tritata all'ingrosso, la corteccia di 1/4 di limone e non molto olio. Mettetelo al fuoco e quando il soffritto avrà preso colore, collocateci le anguille e conditele con sale e pepe. Allorché l'umido comincia a scemare, andate scalzandole con la punta di un coltello onde non si attacchino e rosolate che siano. Versateci il sugo di pomodoro conserva e rivoltatele. Rosolate anche dall'altra parte, versateci un buon dito di vino rosso o bianco asciutto mischiato a 2 dita d'acqua. Copritele e lasciatele finir di cuocere a fuoco lento. Mandatele in tavola con alquanto dell'oro in tinto e servitele a 4 persone a cui potranno bastare.